Abbiamo gli aeroplani che, come forse non sapete, hanno ripreso potentemente a volare sopra Bologna. Infatti, come forse non saprete, Bologna è di nuovo abbastanza piena di turisti, soprattutto olandesi, belgi, francesi, eccetera. Pochi cinesi e quasi nessun americano, però un americano, no, una famiglia americana l'altro giorno l'ho incontrata. Comunque, stiamo parlando di questo Zachary, che è il debut album. Che appunto è uscito questo nuovo album che si chiama When the Trumpet Sounds e ce l'ha spedito come al solito la, eccola, abbiamo ti alzo, sei arrivata, siamo già microfonati. Come stai? Sto bene. Avere un navigatore che dà delle indicazioni sbagliate è molto peggio che non averlo. Sì, naturalmente, come sappiamo dal romanzo Il Navigatore Satellitare. Esatto, Obsolete Sheet numero 37, non perdetelo. Esatto, non perdetelo. Detto questo, adesso vi faccio ascoltare, appunto, visto che Boomrush Promotions ci mandano questi gran pezzi reggae, adesso vi faccio sentire appunto questo Zachary con When the Trumpet Sounds. Adesso prima lo devo andare a cercare perché ci vogliono gli occhiali ormai, adesso arriviamo, dove così è andato? Intanto io prendo un attimo il fiato, ecco, tu prendi un attimo il fiato, eccolo. You can be ready when your time comes around. When the trumpet sounds, you better get ready for the fight of your life. And if you get knocked down, you gotta get back up, can't let anybody slow you down. Know yourself and be of good health, physically fit and spiritually blessed. No time to waste, got to focus yourself. Mentally strong, cause the road will be long. I know that I will find. Searching for better days, I'm trying to live my life righteously. For your judgment you've got to prepare, I'm telling you. When the trumpet sounds, you better get ready for the fight of your life. And if you get knocked down, you gotta get back up, can't let anybody slow you down. When the trumpet sounds, you better get ready for the fight of your life. Don't let them put you. Said, will you be prepared? Oh yeah, for that fateful day. Whoa, make sure that you prepare. Yeah, for that fateful day. Whoa, yeah, man, a sicario. Finisce così? Proprio così? Senza nessuna, no, così. Ma potevi scegliere un pezzo appena un pochino più lunghino? Non sono riuscita nemmeno a regolare il ventilatore. Non so cosa dirti, fra l'altro, perché così è finito, ma forse si è sì. Ma è tutto, forse c'è una congiura, è la famosa congiunzione astrale, sì. che significa sono finite le vacanze. Siamo tornati. Niente. Esatto, la musica di sottofondo l'ho messa da un CD, per cui siamo, infatti senti qua, ho messo Chopin. Ah, perfetto. E dunque, bentornati a Coxo Spaziale. Ma dimmi un po', noi dobbiamo parlare del Salento, giusto? Noi dobbiamo parlare del Salento. Ma perché dobbiamo parlare del Salento? Ah, ti premetto che mi sono dimenticato la sigla di Fuori Porta. Ah, porca miseria. Vabbè, allora, ma non fa niente, Carla, dai. Tutino, che è la nostra come si dice, compositrice d'eccezione, cioè, non so se ce lo perdonerà, però, ma probabilmente no. Pazienza per questa volta, facciamo che non è un vero fuori porta, perché io comunque sono qua. Esatto, passiamola, no, così. Passiamola in questo modo. O se no, c'ho questa sigla qua, non so se va bene lo stesso. La rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. 作为一个中国人的名字。 Nel fuori... Va bene lo stesso? Nel fuori porta di oggi. Ma sì, dai, cioè, per me va bene tutto. Io sono appena tornata dalle vacanze. Anzi, io invece ne approfitto per salutare Zino, che così da un giorno all'altro è scomparso e dunque non c'è più la rubrica di Zino a Coxo Spaziale, ma una volta c'era. Era anche divertente, fra l'altro. Mi hai un po' incuriosito, io non so. Bisogna andare, bisogna negli andare annali. Negli annali, sì, adesso non mi ricordo più, adesso passo a una canzone dopo. Senti, dimmi una cosa importante che gli ascoltatori di Coxo Spaziale sanno, ma che io ritardataria no, perché non mi ricordo più, è la 325, la 324. No, 324. Anzi, salutiamo subito Giffo, che ci ha già detto che non gli piaceva la musica dei Boom Rush Promotion, e infatti si è praticamente spaccato tutto ed è finita la musica dei Boom Rush perché Promotion. Perché qua è Giffo che comanda, sì, esatto. Anche il mio satellitare comanda. Infatti. E dunque, no, raccontami di che, allora, innanzitutto come stai? È un po' che non ci vediamo dal vivo. Ma insomma, stavo meglio stavi meglio in vacanza. Stavo meglio a Cala Cacciarella, quella della puntata 322, però vabbè, pazienza. Me ne faccio una ragione, compatibilmente con il rientro, abbastanza bene. Mi chiedevi perché dobbiamo parlare del Salento. Perché io quest'anno in Salento non ci sono andata. Allora, per sublimare questa cosa, questa assenza, ho fatto un po' di ricerca sul campo e ho unito due cose che secondo me sono, di cui una è rilevante parlare perché ci riguarda l'arte, che è la sfilata di Diora Lecce. Ah, certo. E l'altra invece è un po' più da scoprire, che sentirete nella rubrica Fuori Porta, quindi non anticipo. Ah, ok. E quando la sentiamo la rubrica Fuori Porta? Ma dobbiamo prima sentire questo Gallo Silvestro o la Pizzica Indiavolata? Cosa dobbiamo sentire? No, secondo me le mandiamo dopo. Dopo. Allora, non so, si può spezzare in due l'intervista? No. Sì, possiamo provare a spezzarla in due, non so bene come, visto che è tutta una, mandiamola. La mandiamo e poi vediamo poi cosa succede, va bene? Comunque la pizza che la manderei dopo l'intervista. Molto bene, allora facciamo così. O a metà dell'intervista. Perfetto. O a un quarto dell'intervista. Rimetto anche la sigla. A 5/16 dell'intervista. Rimetto anche la sigla di Zino, va bene? Facciamo così. La rubrica di Zino. Tipo Fuori Porta. Come il nome di un cinese. Nel Fuori Porta di oggi abbiamo con noi Michela Santoro. Michela Santoro è libraia e fondatrice della libreria Idrusa, vorrei dire la libreria più a sud d'Italia, ma non sarebbe vero, è la libreria più a sud-est d'Italia, perché si trova praticamente in fondo al Tacco d'Italia ad Alessano, vicino a Capo di Leuca. E Michela, com'è nata l'idea di questa libreria e anche perché si chiama Idrusa? Ciao Chiara, ciao Stefano, grazie per l'invito. Allora, la libreria nasce, come dicevi tu, nel 2004 con l'idea di creare un presidio culturale sul territorio, nel Capo di Leuca, un territorio dove non esistevano le librerie, dove non c'era l'abitudine a frequentare appunto luoghi come le librerie e dove gli indici di lettura erano molto bassi. Per cui sin dall'inizio, con la creazione di questo spazio che volevo che diventasse un punto di riferimento anche per le realtà sociali e culturali del territorio, io avevo già in mente proprio un lavoro di semina, no? di promozione della lettura. Era un lavoro che io volevo portare avanti ed era anche nelle mie corde, nel mio bagaglio culturale. E ho deciso di chiamare questo luogo Idrusa perché volevo che la libreria avesse un'identità molto femminile e in qualche modo raccontasse anche un po' la mia di storia. E allora, scandagliando nella letteratura del sud, della Puglia in particolare, ho trovato questo personaggio che è Idrusa, di Maria Corti, del romanzo L'ora di tutti, forse il romanzo più bello scritto sul Salento, in cui si racconta di quando gli otrantini nel 1480 furono assediati dai turchi e contadini, pescatori di Otranto difesero strenuamente la loro città, e tra questi c'era anche Idrusa, che è un personaggio che nasce come un personaggio molto umile all'inizio del libro e poi invece diventa un'eroina. Ecco, era un cuore guerriero che volevo per la mia libreria. E sicuramente un cuore guerriero anche il tuo, Michela. Michela è laureata in lettere moderne moderne all'Università di Pisa e un'operazione coraggiosa, senz'altro, quella di decidere di fondare un punto di presidio culturale in un territorio che tutti noi sicuramente conosciamo e molti di noi frequentano per altre ragioni, perché per noi di Bologna è una delle mete estive predilette, ma immagino che ci siano per chi vive lì anche varie considerazioni da fare sui flussi anche di diciamo di diversi tipi di pubblico nell'arco dell'anno e una base diciamo di non particolare attenzione, come diceva Michela stessa, alla lettura. Tu come ti sei mossa nel tempo attraverso queste varie difficoltà? Quali sono state le tue scelte, le difficoltà che hai trovato e anche i risultati positivi invece della libreria? Allora, il lavoro dall'inizio è stato piuttosto duro, molto difficile, perché io ci credevo tantissimo, però non ci credeva nessun altro, cioè nessuno, soprattutto in un contesto piccolo, no? Come quello di un paese di 6.000 abitanti, perché io ho una libreria in un paese che ha solo 6.000 abitanti. Allora ho capito che piuttosto che aspettare in libreria che arrivasse qualcuno interessato ai libri, ho deciso di uscire, ho deciso di caricare libri sulla mia macchina e di andare nei luoghi dove la gente si ritrovava, nelle piazze, nelle feste, soprattutto d'estate, nelle varie tappe della Notte della Taranta, dove si faceva la musica. E quindi con il banchetto dei libri incontravo persone, non solo turisti, anche gente del luogo, che poi dopo una breve chiacchierata aveva subito voglia di venire a trovarmi nella libreria. E dopo 2-3 anni di questo lavoro di semina, ma anche di impegno nelle scuole, portando idee, suggerendo anche dei percorsi di lettura con i ragazzi, facendo la lettrice ad alta voce, spesso come volontaria, mi sono fatta conoscere e ho potuto intrecciare tutte quelle relazioni che ora mi permettono di essere una libreria consolidata e di poter contare davvero invece su un supporto straordinario da parte del mio territorio. E nel tempo poi è nata anche l'esigenza di affiancare alle tantissime iniziative che sono nate dalla libreria, quindi le presentazioni dei libri, gli incontri con i bambini, i laboratori per i bambini, addirittura i laboratori per insegnare alle mamme a leggere ad alta voce ai bimbi. E è nata l'idea 6 anni fa di creare un vero e proprio festival letterario. Volevamo fare un salto di qualità e creare, non dico un contenitore, ma un momento, un'esperienza di socializzazione intorno ai libri. E quindi è nato questo festival che si chiama Festival Armonia Narrazioni in Terra d'Otranto, il cui nome è un omaggio all'opera più importante di un poeta del nostro territorio che si chiama Girolamo Comi, che ci ha insegnato a sentirci centro e non periferia del mondo culturale italiano. È un festival dedicato alla narrativa italiana contemporanea. Il direttore artistico è Mario Di Siati, un scrittore di origini pugliesi che però è conosciutissimo a livello nazionale. Con lui abbiamo appunto ideato questo festival, che nel tempo è cresciuto e da 3 anni noi abbiamo anche una collaborazione importante con due premi letterari, il premio Strega con la Fondazione Bellonci e poi abbiamo anche la collaborazione con il premio Calvino, che è il premio per gli inediti, per gli autori esordienti. Ma senz'altro è un esempio importante il tuo, magari anche un esempio importante non solo per il discorso che ruota attorno all'editoria, insomma il modo in cui tu hai costruito pian piano, partendo da una tua convinzione e non lasciandoti influenzare da quello che era la percezione prevalente all'interno di un certo contesto, penso che sia diciamo un esempio da estendere a tante altre situazioni. non è un caso se tutto questo, secondo me, viene dall'impegno di una donna, e nella tua programmazione c'è una, un'attenzione particolare, c'è una sezione dedicata proprio alla letteratura femminile, alle scrittrici. Michela, ci sono magari alcuni titoli che vuoi ricordare, eventi che hai ospitato che ti sono stati particolarmente cari, o anche desideri, il sogno nel cassetto di qualcuna che vorresti magari avere al tuo fianco in una delle fantastiche piazze salentine? Allora, chiaramente sì, il nome della libreria e l'immagine della libreria richiama un particolare interesse per la letteratura scritta dalle donne, però questo interesse non volevo che diventasse però una sorta di ghettizzazione, no? Cioè, il fatto anche di avere una sezione non voleva relegare i romanzi, le opere femminili in una sorta di ghetto, perché la letteratura è bella, la buona letteratura è buona in assoluto, che sia scritta da donne o che sia scritta da uomini, e quindi volevo solo dare la giusta importanza anche alle opere di narrativa femminile, che invece fino a qualche anno fa non avevano la giusta attenzione, secondo me, anche da parte della critica italiana. E quindi sì, è nata questa sezione perché ci sono dei titoli che in libreria non possono mancare, per esempio Passaggio in ombra di Maria Teresa Di Lascia, che è stata la prima scrittrice pugliese a vincere il premio Strega, purtroppo però dopo la morte, ed è un libro straordinario che invito, che suggerisco ai vostri ascoltatori, e L'Arminuta di Donatella di Pietrantonio, che è stata nostra ospite in un'edizione del festival, e secondo me lei è una delle autrici più interessanti della nuova generazione. Poi anche Accabadora di Michela Murgia, Nadia Terranova, che è diventata una sorta di amica della libreria, che ritorna spesso con i suoi libri, anche i libri per bambini, e che con Addio Fantasmi veramente ha regalato ai lettori italiani un libro straordinario, ambientato a Messina, e che poi è la sua terra d'origine. E il mio è un interesse per la scrittura femminile, ma soprattutto anche per il Sud raccontato dalle donne, e quindi questa è un po' la proposta che di solito noi facciamo in libreria. E il mio sogno nel cassetto posso dire che si è già realizzato. Io ho avuto ospite in uno degli appuntamenti estivi del Festival Armonia, proprio un paio di settimane fa, quella che ritengo essere la più interessante, la più importante autrice italiana contemporanea, che è Melania Mazzucco, che ha già vinto il premio Strega nel 2003 con Vita, e che ora con il suo nuovo romanzo si è confermata un'autrice di altissimo livello. Il suo ultimo libro si intitola L'architettrice, edito da Einaudi, e ci racconta la storia di Plautilla, la prima donna architetto dell'epoca moderna, vissuto nel 600 in un'epoca terribile per le donne, e consacra in questo libro questa figura straordinaria. Sì, grande libro, L'architettrice, è un libro consigliatissimo alla nostra audience, non solo perché parla di una donna, ma anche perché parla di arte, quindi del rapporto tra donne e arte, che è uno dei miei cavalli di battaglia. Sono solo un po' dispiaciuta che tu abbia già realizzato questo sogno del cassetto per noi, per un fine totalmente egoistico, perché se doveva ancora realizzarsi ti avrei chiesto, alla prima occasione chiedi alla Mazzucco di registrarci il nostro spot. Pazienza, ci sarà spero un'altra occasione. Michela, a parte gli scherzi, complimenti, grazie anche per la tua intervista, per il tuo tempo. Noi ricordiamo naturalmente alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Coxo Spaziale dove si trova la libreria libreria che a distanza naturalmente è possibile seguire anche sui social. La libreria Idrusa ha un sito Facebook che non mancheremo di segnalare sul nostro blog, e noi ti salutiamo sperando di poterti incontrare di persona, perché questo tra l'altro vorrebbe dire che siamo molto probabilmente in vacanza in luoghi idilliaci, ma in vacanza in luoghi idilliaci non c'è solo da godere delle bellezze naturali, ma anche da comprendere il significato di tutta questa ricchezza. Grazie tante Stefano e Chiara, e la libreria vi aspetta ad Alessano e nel profondo Salento, Finibus Terre, dove finisce la terra ma dove comincia, può cominciare davvero un viaggio straordinario per chi voglia conoscere un territorio bellissimo e molto molto accogliente. Vi aspettiamo ad Alessano, ciao a tutti. Giffo che si è già innamorato di Michela, ma come fa Michela di cognome, che l'ho perso? Michela Santoro, Santoro. Santoro. Un nome che promette bene, devo dire. Ma questa pizzica indiavolata invece cosa c'entra? Questa pizzica indiavolata mi corre l'obbligo di dire che ce la manda un personaggio abbastanza celebre in Salento, che è il pizzicatore mascherato. Ah, wow. Però sono le 19:28. Quindi non la mandiamo tutta, anche perché poi continua sempre così. Ah sì? No, non lo so. Non è male però, eh. Vabbè, se a Giffo piace possiamo anche lasciarla su, tanto ci ascolta solo lui. Ma non so se a Giffo piace. Giffo, ti piace? Non rispondere. No, quindi cosa facciamo? Decidiamo noi? Decidiamo noi. Decidi tu. Beh, decidiamo che comunque le pubblicità delle 7:30 devono partire. Ecco, va bene, facciamo così, facciamo fare alla pubblicità, che poi mi sembra anche in tema con il prosieguo della esatto, trasmissione. Perché poi dopo ne dopo, parleremo. Dopo andiamo, dopo ampiamente si fa sul serio con la pubblicità. Di pubblicità, esatto. Questo è Coxo Spaziale, naturalmente. Io sono Stefano W. Pasquini. E io no. La consulenza per il gusto della tradizione, quello dello stare insieme. Ciao, siamo le Linking Fingers e questo è Coxo Spaziale. Des documents invisibles portant sur le devenir de l'idée de liberté ont été dissimulés dans un marché aux puces providentiel, avant d'être fortuitement découverts par le seul et unique grand électeur du Saint-Empire faustrolien. Ce dernier les envoie par courrier recommandé à son ami le peintre goffanonien John Wilson, le seul, sans doute, qui réussit à concentrer et à coaguler en un papillon tous les orages du ciel gallois. Des gribouillages informes relient toutes les parties de l'univers visible et invisible. Les hiéroglyphes imprévus traduisent l'altération de la brume, suscitent d'autres phénomènes atmosphériques prodigieux ou inquiétants. Mais leur cycle reproductif est conditionné par la contradiction sociale. représentée par ces quelques signes d'appartenance muets mais efficaces, la secrète complicité créée entre certains êtres qui désirent refaire l'entendement humain forme le germe d'une civilisation future. Le nombre naturel arraché dans tous les sens du côté de l'anniversaire de l'esprit s'étend jusqu'aux facultés des séraphins. È finito così. Lo devi ridire perché mi sono sbagliato, ho tirato sul telefono al posto del tuo microfono. E quindi ripeto pari pari, ho detto il certo. Francese ha sempre il suo perché. Ha sempre il suo perché. Nel frattempo non mi ero accorto che la mia musica di sottofondo era andata in loop col CD, per cui questo suono che sentivate era un po' così, un po' strano. Ma niente, siamo nel delirio tecnico. Ma sì, come al solito, del resto, sì. Voglio dire. Siamo tornati in studio, quindi tutto riprende lì dove l'avevamo lasciato. Esattamente. Non ci sono più quelle belle puntate lineari. Tutte registrate. Esatto, come si può fare. E dunque, allora, che cosa dobbiamo raccontarci di sto Salento? Allora, di sto Salento avevo reperito questa notizia della sfilata organizzata dalla Maison Dior davanti al Duomo di Lecce. Che ci riguarda perché è stata affidata la scenografia a Marinella Senatore, che è una nostra collega artista. Una nostra collega artista contemporanea. Contemporanea, esatto. Mm. E quindi mi sembrava un argomento che intrecciava, cioè c'entrava con noi, non c'entra? Mm-hmm. No, assolutamente. C'entra. È come se fossimo ancora fuori porta. Esatto. E dunque che cosa ne pensi tu di questa operazione molto commerciale, devo dire. Sì, devo dire che di arte contemporanea io ho visto un po' così alla brutta il video e non ho avuto l'impressione che ci fosse. Cioè l'arte contemporanea non era al centro, proprio centrissimo della questione, dici? No. No. Cioè, anzi, secondo me non se ne è accorto nessuno che c'era un'artista contemporanea di mezzo. Ma non lo so, c'erano queste scritte che campeggiavano in mezzo alle luminarie. Ma se fosse solo per le luminarie, certamente no, perché oltretutto le luminarie in Salento sono la prassi, esatto. per ogni festa, per ogni rito, eccetera. E no, c'erano le scritte, che è un po' la cifra, no? che Marinella Senatore utilizza in diverse situazioni. Perché c'è questo temone che per me è molto, a me sta molto, cioè un po' tra il cuore e la spina nel fianco, non sì. Saprei bene come dire, che è che Dior, Maria Grazia Chiuri, che è la, non so come si dice, la direttrice artistica, non so qual è il termine giusto. Comunque, probabilmente sì, la direttrice artistica. Diciamo, rende l'idea, poi se magari mm-hmm. proprio non era esattamente corretto, perché sai, nel regno dello styling c'è tutta una certo. sua terminologia. Lei, Dior era tra gli sponsor di quella mostra molto interessante che aveva curato Marco Scottini ai Frigoriferi Milanesi l'anno scorso, certo. sull'arte femminista negli anni 70, quindi gli esordi, diciamo, di un linguaggio che ereditiamo e che al quale anche Marinella Senatore certamente è debitrice, come io anche e tutte noi, insomma. Mm-hmm. E già lì c'era un po' un grosso punto di domanda, perché sì, va bene, ci vogliono gli sponsor, se no magari le cose non si fanno, però Dior, che è una casa di moda, quanto c'entra col femminismo, diciamo, nell'immagine che poi propone, eccetera eccetera, anche se Maria Grazia Chiuri probabilmente sarà anche in buona fede nelle sue super femminista. Insomma, super femminista non lo so, perché forse se fosse super femminista non lavorerebbe per Dio, dici. Chi lo sa? Non si sa. Anche questo, adesso c'è tutta questa cosa dell'empowerment, no, femminile, certo. Per cui super femminista anche Christine Lagarde, per esempio, mm-hmm. no? Certo. Però sì, poi dopo bisognerebbe andare a vedere un pochino più nel dettaglio che cosa fanno sì concretamente queste persone, perché l'empowerment va bene se lo dici come etichetta, siamo tutti felici, però poi mm-hmm. cioè nel concreto. Ah no, chiaro. Comunque, insomma, questa cosa è un po' continuata a Lecce, perché Marinella, senatore, ha messo al centro una frase di queste scritte che lei ha utilizzato, che in parte credo siano proprio sue, sue di Marinella, senatore, però ruotavano attorno a invece questa frase di Carla Lonzi, che è: la differenza delle donne sono millenni di assenza dalla storia. E quindi, insomma, il femminismo continuava a essere proposto all'interno di questa kermesse spettacolare che, sì, onestamente, secondo me con Carla Lonzi non c'entra proprio moltissimo, però comunque li ho visti tutti molto contenti, i salentini, di avere questa mentre invece su Facebook ho letto opinioni divergenti, proprio di gente che diceva: però state attenti che Lecce diventerà gentrificata, verrà comprata completamente da americani, inglesi e tedeschi, e dunque non potrete più abitare nella vostra città. Ecco, sì, credo che ci siano state molte di queste polemiche, ovviamente i soliti due partiti. C'è stata anche Italia Nostra che si è espressa nel kermesse delle polemiche, ma perché hanno coperto il barocco leccese del Duomo con queste luminarie per fare la sfilata, quindi, però poi il vescovo era contento. Ah, se il vescovo è contento, contenti tutti. Sì, esatto. A posto così. Io, tra l'altro, questa cosa della chiesa che intreccia i temi femministi, non so se a sua insaputa o volutamente, non capisco bene, ogni tanto capita. C'è una casa editrice che è Wanda e-Publishing, che ha pubblicato numerose cose anche molto interessanti di autrici femministe, che è anche, mi sembra, gemellata con, ha qualche cosa a che vedere con quelli che hanno pubblicato, come si chiamava quell'esorcista modenese, adesso non mi ricordo più, un esorcista modenese, Padre Amort. Sì. C'è anche questa cosa qui, stiamo entrando in un meandro un meandro inquietante, vabbè, usciamone subito, esatto. Comunque il vescovo era d'accordo, Italia Nostra no, molti salentini sì, perché comunque ha valorizzato il loro territorio, giustamente. Poi la Chiuri pare che abbia lavorato con delle maestranze, degli artigiani e delle artigiane del luogo, eccetera eccetera. Ma questo è successo in pieno Covid o sbaglio? È successo in pieno Covid, anche se erano già dell'idea di farlo prima, poi doveva essere una cosa con un coinvolgimento di pubblico, forse proprio non sono sicura su questo, ma mi sembra di aver letto che Marinella, senatore, che lavora anche sulla performance, aveva in mente di coinvolgere forse anche in azioni o qualcosa di simile, e naturalmente tutto questo non è stato possibile ed è stato fatto questo eventone che ha avuto una potenza mediatica ma in assenza di pubblico, mi sembra di aver capito. Tempo che l'ho guardato io, che credo che fosse il giorno dopo, su YouTube aveva già tipo 1 milione di visualizzazioni, era una roba spaventosa, era sulla bacheca di Facebook di quasi chiunque. Ecco, esatto, però I caught him on his knees. There was a deaf man singing. We danced in the street. I left him as my brother. You labeled him a freak. I've had enough out of you, yeah. I've had enough out of you. I've had enough out of you, yeah. I've had enough. I kissed a healing leper. She gave her lips to me. I washed the flowers out with her, with no peace to set her free. There was a saint by the river, washed feet with my despair. There was a blind man watching, he didn't seem to care. I've had enough out of you, yeah. I've had enough out of you. I've had enough out of you, yeah. I've had enough out of you. I've had enough out of you, yeah. I've had enough out of you. I've had enough out of you, yeah. I've had enough. Certo, tagliarti mentre parli con una canzone che si chiama Enough Out of You. Ah, fantastico, esatto. Direi che dice, di una cioè, coerenza spaventosa. È qui che urla, capito? Ne ho abbastanza di te, ne ho abbastanza di te. Stai attento che fra un po' ricomincia la scuola, quindi appunto, potrei prenderti in parola. Poi non torna la Fedra, tra l'altro. Ma sono misteri. Misteri che siamo tutti appesi. Esatto. Intanto il direttore mi ha chiesto se intendiamo anche quest'anno continuare a fare Cox Spaziale. Io naturalmente gli ho risposto di sì. Beh, certo. come potrebbe essere altrimenti. Cioè, certo. Anche perché sennò tutto questo mio sforzo estivo doveva finire. Sì, appunto, infatti. No, e poi, come voglio dire, la trasmissione più spaventosa di Radio Città Fujiko non può finire così, alla fine di un'estate qualunque, capito? Ma no, cioè, a parte che vabbè, non è che proprio sia un'estate qualunque, però sì, no, comunque... effettivamente è un'estate un po' poco qualunque. Non ci si libererà. Ma dovevi dire qualcos'altro, sì, rispetto a questa istanza. Sì, volevo dire rispetto a questa istanza, siccome cioè io avevo fatto un po' di indagini sulle cose meno appariscenti di tutta la vicenda, ah, no? Okay, perché sì. Quelle un po' più complicate. Come sai fare tu, del resto. Fare io come penso sia giusto fare, siccome proprio c'era lo slogan, insomma, era questa cosa di Carla Lonzi, la differenza sono millenni di assenza delle donne, sì. Allora sono andata a vedere chi non c'era in questa cosa, perché pare che sia successo che per sbaglio è finita all'interno delle luminarie il pezzo di un'opera di un'altra artista, che è Maria Grazia Pontorno, una spiga, pare. Ok. Che aveva fatto nel 2011 per un altro lavoro ed è finito in mezzo alle luminarie. Come senza, se fosse una luminaria tradizionale, mentre esatto. Invece l'aveva fatta lei. E senza che nessuno poi la citasse o nemmeno la ringraziasse. Quindi, ok. Ecco, e allora niente, io sono andata a guardare un po' di cose su Maria Grazia Pontorno, che tra l'altro lavora con una galleria interessante che è Passaggi Arte Contemporanea, che è una galleria diretta da Silvana Vassallo. Che lei mi sa che lei sì è femminista, comunque ha partecipato. Di dove questa galleria? Allora, se non sbaglio, è di Pisa. Ok. No, non volevo metterti in difficoltà. No, non credo che tu mi metta in difficoltà, però io cioè, ho un motivo mio a volte per fare un po' confusione. No, ma è di Pisa. Ok. E poi magari controllo. Vabbè, dai. Su www.coxospaziale.blogspot.com avremo tutte le informazioni del caso. No, fra l'altro io sono un po' tentato di ma sì, dai, facciamo così. L'angolo della menzione. Perché in realtà sono un menzionista. Mi dicevo, ma la menzioniamo, non la menzioniamo, ma sì, menzioniamola. Mi è arrivato poco tempo fa, tipo 10 minuti fa, Inventario Varoli. Della copia e dell'ombra a cura di Massimiliano Fabbri con Cesare Baracca, Giulia Dall'Oglio, Elena Ameschi, Enrico Minguzzi, Elisa Muglier, Enrico Tealdi e Luca Zarattini, e sarebbe il 29 e il 30 agosto dalle 10 alle 20 al Museo Luigi Varoli di Cotignola. Cotignola non è proprio in strada, diciamo che non è all'interno della città metropolitana, no, ma però, vabbè. Insomma, è menzionabile, dai. Mi dice, durante i mesi di luglio, agosto e settembre, dentro e intorno alla mostra Deposito Inventario Varoli, visibile al piano terra di Palazzo Sforza, e io mangio le parole intanto, il museo organizza una serie di incontri in cui ospita piccoli gruppi di artisti che si ritrovano per un paio di giorni a lavorare e confrontarsi mentre disegnano o dipingono pezzi sparsi, frammenti particolari e dettagli tratti da questo archivio, una foresta di oggetti e piccole sculture appartenuti al maestro cotignolese del primo Novecento. Devi sapere che il museo Varoli è un posto meraviglioso dove fanno dei workshop per bambini con queste teste enormi di carta pesta, delle robe spaziali proprio. Ah, bellissimo. Sì, e dunque niente, e se il se non sbaglio solo un sabato e una domenica. Ma le fa queste teste di carta pesta? Le fanno i bambini, ma in realtà secondo me le fa Massimiliano Fabbri che è un pittore curatore che a Cotignola. Ma lo conosco Massimiliano, ma sì, perché ho fatto anch'io Selvatico, Rassegna di Campagna. Poi hanno tolto Rassegna di Campagna, che secondo me era bello invece. Ah, si chiamava Rassegna di Campagna. Si chiama, quando l'ho fatta io sì, poi dopo quando sei arrivato tu l'hanno tolta perché magari Pensavano che te ne avessi a male. Ah, dici? No, non lo so. Io non ho, cioè, ho abitato a Zola Predosa per 11 anni e non ho nulla contro la campagna. Infatti. E così, e allora facciamo così. Ah no, no, facciamo così. Non lo fa più. E allora a questo punto facciamo anche così. Non sappiamo cosa dire. I due minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Il sushi? In Italia è coltivato soprattutto nei buffet all you can eat dei capannoni delle aree industriali. Esso può veicolare malattie fastidiose quali il vomito lungo o la caghetta trasparente. La causa è da ricercarsi nei merdoni che si grattano il naso prima di maneggiare la pinza. Si potrebbe anche provare a mangiare il sushi in piscina con le mani, dopo aver fatto la doccetta e bagnati coattivamente i piedi nella schifezzuola con le vespe morte. Alla reception viene sempre fatta firmare un'autocertificazione di schifezzuola cogente. Chi piscia in piscina non viene mai punito. Chi non sputa in piscina viene reietto e ci si burla di lui. Chi non ha la cuffia viene redarguito e deve acquistarla bestemmiando. Una volta avevo i Bermuda, ma facevano entrare solo quelli col costume. L'ho comprato e sono stato sbattezzato d'ufficio. Nelle piscine termali l'acqua è calda, ma c'è gente che mi fa un po' schifo. Come quando qualcuno parlando ti sputa sul labbro, quella sensazione che dura 24 ore. I funghi nei piedi non li ho ancora trovati, bisogna conoscere i posti e quelli che lo sanno non te lo vengono mica a dire. Una volta ho pulito una cesta di prugnoli, ho preparato il sugo per le tagliatelle e quello che è successo è commovente, condividi. Se in piscina non c'è il wifi è perché, in base alle normative della polizia postale, non si può rischiare che qualche terrorista arrivi a chattare in mutande tutto unto con uno spritz, un beach volley, una peri sushi, un disco dinner, una zumba, un download illegale, un'acqua solo naturale fuori frigo. Già finito? Devo specificare che questo numero 38 dei due minuti di Lolli era stato fatto prima del Covid. Per cui, ok. Sì. Comunque adesso che hai mandato questo pezzo dei due minuti. A casa. Sì, cioè non so, tutto quello di cui potevo pensare di parlare viene un po'. Viene un po' meno. Ma sì. No, soprattutto magari sembra fare degli accostamenti che poi non. Che poi non funzionano. Abbiamo silenziato anche Gifo in tutto questo. Infatti è rimasto un po' così. Mi dispiace, cosa devo fare? Metto uno stacco della menzione? Ma non lo so, se vuoi. Io avevo pensato di leggerti qualcosa di più su Maria Grazia Pontorno, la parola oggi non ce l'abbiamo? Sì, la parola ce l'abbiamo, no, ne abbiamo due. Sono le 19:51. Ah, quindi quanto tempo ho per la parola? Non lo so, hai 9 minuti per tutto quanto. Vabbè, direi che ci siamo, ma 9 minuti radiofonici sono un'odissea, è un abisso di tempo, un tempo anzi che... Cioè non facciamo tempo a dire due stupidaggini che sono finiti. Vabbè, allora vuoi che vada con la parola? Vai con la parola. Vado non lo so, ha più senso forse. Va bene, andiamo con la parola. Le parole sono due. Perché due? Ma perché ci stiamo avvicinando alla fine, perché l'ultima parola sarà lunedì prossimo. Addirittura. Esatto, la famosa ultima parola. Lunedì prossimo, ricordiamoci che c'ho l'intervista per Buonanotte. Che non so cos'è, ma poi è un paese che si chiama Buonanotte. Ma bellissimo. Un fuoriporta abruzzese. Ah, quindi lo fai tu il fuoriporta? Lo faccio io. Grandioso. Il fuoriporta. È una rivoluzione. Hai visto? Vedi, l'ultima parola alla fine ce l'hai sempre tu. Ah, vabbè. È così. Mm. Vabbè, allora, comunque, siccome stavamo per finire e mi sembrava anche giusto, visto i temi, leggere Spettacolo di Irma. e Spiga di Nicola Ferrari, visto che abbiamo parlato della spiga di Maria Grazia Pontormo, in onore suo, in quanto diciamo più coerente con la frase scelta poi dalla più celebre Marinella Senatore. Allora, spettacolo di Irma, dice: spettacolo vuol dire che faccio delle cose pazzesche che nessuno sa fare, tipo tirare fuori un coniglio da un cappello. Questo è uno spettacolo e lo fa un attore. Si può fare al circo, all'ospedale, a casa, nei camper, nelle macchine, nei lavori, nei boschi, sul tavolo. Ci sono dei bambini e dei genitori che lo guardano, bisogna fare silenzio e non distrarsi. Quindi, secondo me, non rientrava Dior in questa definizione. Tu cosa dici? No, ma non c'entra niente, quindi non era spettacolo quello. Vabbè, e poi Spiga di Nicola Ferrari, spiga germoglio di pianta tranciata dall'urbanizzazione. La spiga non tornerà, il vento sulla superficie dell'acqua tra i semi del grano e le erbe matte, verdi più delle altre spighe, rimangono il mio ricordo più vivido. Le ho attraversate, ora però pensiamo ad altro, che il rammarico è un fardello da abbandonare troppo facilmente romantico. Questo "la spiga non tornerà" devo dire che non mi dispiace, cioè penso che piacerebbe anche a Giffo. Esatto. Ok, mettiamo un po' di disco? Ma sì, dai, chiudiamola così. Ma no, ci sono ancora, abbiamo 5 ancora... minuti di disco. No, 5 minuti di disco no, ma 3 minuti per dire qualcos'altro. Ma e dunque, quando è finita la parola, poi avremo un vocabolario intero? Beh sì, diremo dove andare a cercare tutte le altre. Ah, ho capito. Ma questo sarà nella prossima puntata. La 325, sì. Che naturalmente, come tutti sapranno, o forse no, sarà lunedì prossimo dalle 19 alle 20. Sempre su Radio Città Fujiko, che è questa radio qua che voi state ascoltando, su 103.1 FM o su www.radiocittafujiko.it. clicca, ascolta la diretta, oppure il giorno dopo su coxospaziale.blogspot.com. sì, no, in realtà ho scoperto che se metti anche it funziona lo stesso. Ma sei su tutti i siti web? Sì, no, è Google che fa questa cosa. Infatti questa cosa qua dei siti che da soli si autotraducono, tipo su eBay adesso, se scrivi qualcosa in inglese lui te lo fa vedere in italiano perché sei in Italia. Sì, cosa odiosa, perché certe volte tu magari vorresti proprio cercare in inglese, oppure magari ti fa vedere, ti traduce delle robe, infatti non capisci più niente. Voglio il file MP3, aspetta che non ho capito. Il file MP3 di cosa? Infatti secondo me mi ha spedito 2 o 3 messaggi, sentivo dei ding di Giffo. Naturalmente se qualcuno vuole dei file MP3, ah cavoli, mi sono completamente dimenticato. Ecco, la cosa più importante della puntata. Li avevo salvati e mi sono completamente dimenticato di quello. Adesso lo metto in viva voce, guarda. No, c'è un signore che credo che si chiami Stefano Roma, che spedisce dei vocali a Radio Città Fujiko, e la volta scorsa, che non era la volta scorsa ma era quella prima, gli avevo promesso che l'avrei fatti sentire a Coxo Spaziale. Per forza, scusa. Allora, fammi un po' sentire. Lui vuole, no, straordinario Lolli, voglio il file MP3 di Lolli. Questo è Giffo. Mentre sì. Invece, adesso andiamo subito, adesso dovrei riuscire a trovare almeno un dunque, devo fare un cerco. Hai 2 minuti per riuscire. Sì, no, infatti eccolo qua. Dovrei avere, no, sbagliato. Ah, no, ma nel frattempo che tu hai tutte queste esitazioni e tentennamenti, io avrei potuto parlare di altri 4-5 argomenti, ma... Da, certo, no, ma parla intanto che io sto cercando questo... Vabbè, ti leggo il comunicato stampa di un pezzettino di un lavoro di Maria Grazia Pontormo, che come avrete capito era la protagonista della puntata. Buongiorno! Non ce l'hai fatta. Non ce l'ho fatta. Sentilo. È corta in mezzo agli alberi. Non c'è frutto che non valga la pena di mangiare. Mangialo e vedrai che rinascerai. Rinascerai di nuovo. Non è la mela, ma cosa sarà? L'importante che è l'amore che ti dà il frutto della passione. Buongiorno da Marco Roma. Marco Roma si chiama. E lui manda dei vocali di questo tipo al 333 180 94 94. Cioè l'hai scelto o Cioè l'hai scelto tra tanti o ne hai preso uno a caso? Questo era uno a caso, ma ne ha mandati un po', anzi probabilmente ne sta mandando, anzi forse stamattina ne ha mandati degli altri. È una roba un po' in stile videobox questa. È un po' stile videobox, te lo ricordi? Approfittiamone videobox per salutare la Gabriella di videobox. No, il tuo socio che non mi ricordo come si chiamava. Marco Maggi. Marco Maggi. Ah certo. Fammi un po' vedere, questi sono sms, stavo controllando sul 333-180-94-94 se Marco Roma avesse mandato degli altri buongiorno cantati, ma nel caso dopo poi me li mando e giuro che li trasmetteremo. Che li trasmetterai, va bene, allora abbiamo 10 secondi, tutto quello che non siamo riusciti a dire lo mettiamo sul blog come al solito. E basta. E quindi, insomma, io ero Chiara Pergola. E io ero Stefano W. Pasquini. E questo invece è il direttore che dice, come al solito, con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Bella sta cosa. Mi piaceva il rumore di sottofondo. Comunque, questo era Coxo Spaziale. Ci rivediamo lunedì prossimo. Ciao, ciao. Ci risentiamo. A weed comes in a plastic bag, grown from patty seed. These are desperate times. Senator Reagan edible became someone to trust. These are desperate times for all of desperate, awfully desperate.